con Virginia Galli, una delle coordinatrici della quinta edizione di Parallelamente a Sarzana dal 26 agosto al 2 settembre. Virginia, benvenuta. Ciao, grazie, bentrovati, bentrovato. Cominciamo con la storia di questo Parallelamente. Sì, Parallelamente è una rassegna off del Festival della Mente, che è appunto il festival sulla creatività promosso dalla Fondazione Carispezia e che è arrivato alla sua 18ª edizione, e Parallelamente ha cominciato invece un po' di tempo dopo e quest'anno giunge alla sua 5ª edizione. E Parallelamente appunto è una rassegna off che è comunque promossa sempre dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, che però pone un po' la sua attenzione nei confronti delle realtà culturali che sono, degli artisti che sono legati al territorio di Sarzana. In realtà legati al territorio di Sarzana, come diciamo noi, con uno sguardo oltre i suoi confini, perché in realtà appunto sono artisti che o lavorano tutto l'anno sul territorio di Sarzana, Spezia, Carrara, insomma tutta quest'area geografica intorno a noi, o comunque hanno diciamo sono originari di questa zona, ma in realtà lavorano molto spesso fuori. Quindi ci sono anche giovani, per esempio, che in questo momento stanno studiando fuori e che per l'occasione vengono a fare le loro performance, i loro concerti all'interno della rassegna. Quindi si tratta comunque di una rassegna multidisciplinare? Esattamente, è una rassegna multidisciplinare che, diciamo, nasce con l'idea anche di regalare un po' di pillole artistiche più leggere, diciamo, rispetto alle conferenze che di solito animano il Festival della Mente, per cui in luoghi non convenzionali di Sarzana, che è una cittadina medievale che si presta molto, per cui gli archi dei palazzi, piuttosto che abbiamo dei torrioni cinquecenteschi, perché era una città appunto cinta da mura, o quest'anno anche in una bottega di un antiquario, perché siamo anche una città famosa per la rassegna antiquaria che viene fatta durante l'estate. In questi luoghi non convenzionali gli artisti fanno delle piccole performance che durano in media un'ora e che quindi sono tutte a ingresso libero e fruibili anche dal pubblico del Festival della Mente, che preso da una conferenza all'altra, diciamo, cerca di inserire nel suo programma della giornata anche queste brevi performance. Quanti sono gli eventi ospitati in questa settimana della quinta edizione? Allora, questa settimana abbiamo moltissimi eventi, perché di solito, come tutti gli anni, praticamente inizia la domenica prima del Festival della Mente, quindi iniziamo il 26, cioè questa domenica, e proseguiamo fino alla fine del Festival della Mente, quindi a domenica 2 settembre. Quindi una settimana di eventi per un calendario molto fitto che ospita più di 20 performance, da performance, reading, concerti, installazioni artistiche, proiezioni, ce n'è veramente per tutti i gusti. A questo punto diamo come riferimento per maggior dettagli e informazioni qualche spazio web, se c'è una pagina Facebook, un sito internet? Assolutamente, c'è la pagina Facebook che è Parallelamente, il profilo Instagram che è anche quello sempre Parallelamente, abbiamo il profilo Twitter e poi sul sito del Festival della Mente, nella sezione Extra Festival, ci sono tutte le informazioni relative anche a Parallelamente. Allora, ricordiamo la quinta edizione di Parallelamente dal 26 agosto al 2 settembre a Sarzana. Un saluto e un ringraziamento a Virginia Galli, una delle coordinatrici dell'evento. Virginia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, e un abbraccio, ricambio volentieri l'abbraccio e sempre il lupo.